9 in punto. La versione di Oscar. Buon lunedì 22 agosto, buon rientro per chi è rientrato, partenza per chi parte, ma insomma chiunque ci ascolti, un buongiorno da Oscar Geno che torna ai microfoni di Radio 24 per condurre la versione di Oscar alle 9 del mattino dopo il giornale radio e naturalmente i colleghi del giornale radio possono interromperci in ogni secondo per notizie nuove che provenissero da la caduta del regime libico, che è la notizia in questi ultimi due giorni che domina ovviamente tutte le edizioni, ma oggi noi cominciamo questa settimana che è molto importante per la modifica della manovra bis del governo e molto importante perché dovrà registrare anche cambiamenti, per così dire, negli equilibri all'interno del governo, all'interno della maggioranza, ed è significativamente introdotta questa settimana dall'intervento che ieri ha segnato l'esordio del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, l'esordio del capo dello Stato. E il capo dello Stato col suo discorso di ieri si è posto con grande energia e grandissimo successo a Rimini come il punto di riferimento di questa fase della vita nazionale. E io concordo col fatto che sia così, perché se non ci fosse stato il capo dello Stato da luglio a prendere in mano con grande energia il richiamo della maggioranza, del governo e dell'opposizione ai tempi rapidi della crisi internazionale, noi non avremmo avuto le due manovre bis, perché la politica italiana è più forte di lei, non li capisce i tempi accelerati del mercato, anzi tende a dire che poi i mercati hanno torto, non capiscono, bisogna frenarli, quando i politici non hanno chiaro cosa sono i tempi rapidi del mercato e quali potenti forze sono in atto sul mercato internazionale per colpire le debolezze politiche e le miopie, tanto della politica americana di Obama, tanto di quella europea divisa sulla crisi dell'euro debito, vuol dire che quei politici non sono all'altezza, perché non hanno le competenze minime necessarie a capire quali sono le conseguenze di ciò che fanno o di ciò che non fanno. E capo dello Stato, ieri col suo intervento a Rimini, ha preso a schiaffi, per così dire, sia la maggioranza del governo che l'opposizione, e ha avuto un'ovazione, secondo me, da comprendere bene, perché è il motivo per cui è in testa a tutti i sondaggi. Che cosa ha detto in tre passaggi politici? Il primo, ha detto che la maggioranza e il governo hanno in buona sostanza sottovalutato la portata di questa crisi. Io sono d'accordo, da che mi sentite qua ai microfoni tutte le mattine non mi avete sentito dire altro che non ci voleva un Nobel o una laurea per dirvi che la crisi di tre anni fa è ben lungi dall'essere conclusa. Seconda cosa, ha detto il capo dello Stato che l'opposizione non va bene, perché non può dire solo che la colpa è del governo e dire sempre no. Sono completamente d'accordo anche su questo. La terza cosa è che ha parlato della necessità di una rifondazione morale, di guardare al futuro. È chiaro che ha parlato ai giovani, ma insomma il tono era quello di uno che chiedeva un cambio di marcia. Perché ho voluto iniziare questa trasmissione, che è dedicata a come cambia la manovra e a come cambia la politica italiana, sulla manovra bis, parlando del capo dello Stato? Perché appunto ciò che mi è sembrato più rilevante nella manovra bis di agosto è stato il cambio di atmosfera politica. Se già la manovra di luglio era stata approvata in 72 ore perché il capo dello Stato aveva creato l'atmosfera necessaria entro la quale portarla, ma l'opposizione a dire il loro no, ma a dirlo, a garantirlo in 72 ore, a maggior ragione sono state le lettere della Banca Centrale Europea e la pressione del Quirinale a portare alla manovra bis. Quindi una pressione esterna che mi spiega perché sta ottenendo crescente successo, per esempio, altro punto della riflessione di oggi, il recentissimo manifesto in 10 punti della Fondazione Italia Futura di Montezemolo. Questi 10 punti sono 10 punti di cui parleremo oggi, sono 10 punti dei quali io condivido tutti meno uno, perché conosco poi anche chi ci ha lavorato, lo stimo e così via, ma quello che mi interessa sottolineare è che ancora una volta si va nella direzione in cui da mesi, da questi microfoni, vi facciamo riflettere, cioè a modifiche dell'offerta politica attuale, a modifiche di un centrodestra, di un governo estenuato e che non riesce a beccare per l'ennesima volta la questione di fondo, avendo l'occasione storica di poter affondare le mani fino al gomito nella ridefinizione del perimetro pubblico italiano, non lo fa e tentenna e si divide su questioni fondamentali, su cosa tassare, su perché, finisce per tassare presunti ricchi che hanno poco più di 40.000 euro di reddito l'anno, facendosi spernacchiare dal suo elettorato e da chiunque abbia un'idea di quale sia la pressione fiscale per quella parte di italiani, e poi si divide su tutto, ci becchiamo le pensioni di previdenza così come le pensioni di anzianità così come sono. Bossi continua a ripetere di sì, come se si trattasse di difendere i poveri. Evidentemente non sa che difendere il diritto di andare in pensione a 59 anni per lavoratori del nord non c'entra niente con l'aumento del potere d'acquisto delle pensioni al minimo, oppure se lo sa in malafede. In entrambi i casi forse è meglio che vada a casa anche lui, tanto per dirne un'altra. Altri nel centrodestra pensano invece che l'appello venuto anche da Confindustria per alzare i tetti di previsti per i trattamenti di anzianità sia più che fondato, e si dividono però fare solo quota 97 rispetto all'attuale 96. Anche qui si tratta di non capire le dimensioni e la proporzione di quello che può venirci in termini di punti di PIL da un'elevazione dell'età del trattamenti di anzianità, ma anche di vecchiaia, dico io, molto significativa, approfittando del fatto che adesso i mercati ci chiedono di farlo. Se lo si fa così, se si passa da quota 96 a quota 100, per capirci, in tre anni, altro che quota 97, allora, e se si aggiunge a questo anche un aumento per i trattamenti di vecchiaia da 65, generalizzato per uomini e donne, tanto per cominciare in tempi rapidi anche lì, a 67 in tre anni, sono decine di miliardi di euro di saldi che potrebbero liberare e generare risorse anche per la crescita, potrebbero essere volti anche, dice Confindustria, alla diminuzione dei contributi da subito per l'assunzione di giovani. Questa è la dimensione delle cose da fare. E poi le privatizzazioni, le cessioni, in che proporzioni e così via. Vedremo con i nostri ospiti che cosa e loro si aspettano da tutto questo. Ma mi interessava farvi riflettere sul fatto che se ha ragione il capo dello Stato, nel suo doppio schiaffo per così dire, chiamateci, ditecelo, ma allora vuol dire che dovete aspettare modifiche dell'offerta politica. E così come Montezemolo è evidentemente protagonista di una modifica dell'offerta politica sul centro, a sinistra io non so dire, ma forse è venuto il momento per cui in poche settimane anche nel centrodestra, non solo i deputati che non si riconoscono e lo dicono per la prima volta nella manovra di Giulio Tremonti uscita dal Consiglio dei Ministri, perché vogliono più tagli alle pensioni, vogliono più privatizzazioni, e ne parleremo anche con loro in questi prossimi giorni, forse è tempo perché qualche novità dal basso esca, dopo che ve l'abbiamo detto per mesi, anche magari promossa da un po' di ceti imprenditoriali, professionali, eccetera, eccetera, che delusi da questo centrodestra dicono è venuto il momento per cui raccogliamo firme e diamo denari perché alle prossime politiche ci siano proposte come quelle di Montezemolo da una parte, come la sinistra vediamo che cosa ci dirà, però un pezzo di centrodestra che dice punto a capo con questi 17 anni, questi tentennamenti e queste divisioni. Fine della mia introduzione, parola agli ospiti di oggi. Abbiamo con noi Nicola Rossi, che è senatore del gruppo misto, presidente dell'Istituto Bruno Leoni, animatore, lo sappiamo tutti esattamente, di questi 10 punti che sono stati recentemente presentati da Italia Futuro, che vi ho sommarizzato, ma ne parleremo con lui meglio. Buongiorno e grazie a Nicola Rossi. Buongiorno a voi. Alessandro Barbera, giornalista della Stampa. Buongiorno e grazie Alessandro Barbera. Buongiorno, buongiorno a voi. E il direttore del giornale Sallusti. Buongiorno e grazie Alessandro. Io comincerei con te, direttore. Voglio sapere che ti aspetti da questa settimana all'interno della maggioranza del centrodestra. Oggi si comincia con un chiarimento per vedere se la Lega dice no, continua a dire no sull'aumento del tetto per i trattamenti di anzianità. Mi pare che il centrodestra invece non è più sulla linea, come la vogliamo chiamare, Tremonti, Bassi, Bossi, Sacconi, che era per dire di no. Non ho capito che cosa pensa il Presidente del Consiglio su questo. Ti chiedo di illuminarci. Secondo te Berlusconi, il governo, rispetto a questo no di Bossi, si spostano oppure no dopo quello che ha detto il capo dello Stato ieri? Ma è possibile, ma non tanto perché per quello che ha detto ieri il capo dello Stato, è possibile perché per quello che mi risulta dentro il centrodestra, soprattutto per Berlusconi, quello delle pensioni, sulle pensioni la pensa esattamente come la pensa Montezemolo, come la mi è sembrato di capire la pensate voi in studio. A scanso di equivoci, anche noi del giornale abbiamo detto se non ora quando fare tutto quello che è importante fare, che il paese attende da fare da anni. Però io vorrei introdurre questo elemento che anche rispetto per esempio alla ricetta Bruno Leoni Montezemolo, che ho letto con grande interesse come tutti gli italiani. Un conto è proporre delle cose giuste, un conto è proporre delle cose fattibili, perché poi tra il giusto e il fattibile c'è in mezzo la politica, non solo nei suoi aspetti più deleteri, ne abbiamo visto qualcuno in questi giorni, probabilmente ne vedremo ancora, ma anche nei suoi aspetti più legittimi e nobili, cioè sono forze politiche che hanno dentro la coalizione e anche fuori la coalizione che hanno visioni interessi diversi, e la politica è anche questa cosa qui, la contrapposizione e divisione di interessi, per cui darei un minimo di alibi alla maggioranza e al governo per dire vabbè, le ricette belle sono ricette belle, poi le ricette fattibili sono altra cosa. Ma la domanda è, Alessandro, direttore del giornale, con questo tipo di la tassa sui ceti medi, chiamiamola così, i presunti ricchi a 40.000 euro, è possibile che nella fattibilità del centrodestra rientri la presa di consapevolezza, secondo te, del danno terribile che si sono fatti sparandosi in pancia prima ancora che sui piedi e la spazzino via, oppure secondo te l'impostazione è così contraddittoria rispetto ai no iniziali messi insieme da Tremonti e dalla Lega che è impossibile pensarlo? Si può pensare a qualche aggiuntina per modificarla, ma non per spazzarla via? Io credo, anche qui, ma credo che mi permetto di dire che se fosse per il Premier, io credo che la toglierebbe di peso. In queste ore mi risulta che i suoi consiglieri lo stiano frenando rispetto a questa possibilità, sia per un aspetto di cassa, che però, come tu mi insegni, come voi mi insegnate, risulta pare essere addirittura marginale, cioè certo non fondamentale, ma anche per un aspetto di equità sociale, nel senso che c'è la preoccupazione dentro il centrodestra che alla fine si abbia l'impressione che il ceto medio non paghi questa manovra, mentre invece il ceto medio basso la paghi attraverso delle tassazioni indirette che inevitabilmente questa manovra, e non solo questa manovra, si innescheranno a breve. Pensiamo all'aumento delle tariffe dei bus a Milano, pensiamo all'aumento dell'ICI che i comuni faranno, pensiamo all'aumento delle bollette per i problemi energetici che ben conosciamo, cioè sulla fascia medio bassa, che è esclusa dall'aumento di tassazione, pesa comunque nei prossimi mesi una tassazione indiretta che comunque sarà reale. Allora uno dice vabbè, ma allora, ma il ceto medio, dopo ci dicono che non abbiamo fatto pagare solo ai nostri, che sono, adesso semplificando molto, il ceto medio è moderato, è lo zoccolo duro del PDL, e per cui comunque ci sia bisogno anche politico e sociale di andare a fare qualcosa anche dentro quell'area lì. Io purtroppo sono abbastanza d'accordo con quello che dice Alessandro Saluti. Quando vi dico purtroppo, significa, dal mio punto di vista, che non c'è abbastanza riflessione nelle stanze del governo precedente su quelli che sono i grandi dati della crisi italiana, la grande necessità, visto che io credo che il ballo dei mercati proseguirà, di intervenire in maniera strutturale ben oltre di quello che ci si chiede. Il famoso tema sul commissariamento della BCE mi ha sempre fatto ridere, e quindi ci si ferma all'impressione che se non si aumenta l'aliquota marginale, che è già tra le più elevate di tutti i paesi occidentali, su questa parte d'Italia, 40.000 euro di netti e poco più, e a salire, che paga una pressione già elevatissima e che sicuramente verrà colpita anch'essa dagli aggravi fiscali in manovra di cui ha parlato Sallusti, lo sblocco immediato delle addizionali locali, per esempio, ma poi i prelievi di luglio, mica ce li dimentichiamo. Qui forme di patrimoniali come quelle sul conto titoli, deposito, chi colpisce se non chi ha quella parte di reddito in più? Colpisce esattamente quella parte di italiani, e sono altre migliaia di euro, e così via. Però ecco, immaginare che aumentare la pressione fiscale, ripeto, delle aliquote marginali su quella parte che già paga tanto, sia qualcosa che è diventato politicamente così significativo, perché altrimenti ci si accusa, ci si attira l'accusa di non far pagare i propri, secondo me è un classico errore di percezione da una parte economica e dall'altro politico. Che cosa voglio dire? Che non è un caso, ma è una necessità che, per effetto di questo errore del governo, in poche ore dopo sia diventata popolarissima la patrimoniale, che fino a quel momento era il babau, l'uomo nero che veniva attribuito alla sinistra. L'effetto di questo sbaglio di impostazione, secondo me, è stato tale per cui la patrimoniale, le diverse forme di patrimoniale che una parte del PD vuole, la parte del CGIL vuole, alcune figure come Giuliano Amato o alcuni imprenditori vicini a centro-sinistra, i sostenitori come Carlo De Benedetti vogliono, anche Montezemolo è partito con una patrimoniale che lo sembrava la Warren Buffett italiano, poi alla fine molti vicini Casino gli hanno detto: ma che cacchio stai dicendo, caro Montezemolo? Well, Warren Buffett è tassato al 19%. Ecco, no, noi siamo tassati al 43% ufficiale, e se gli abbiamo il 17%, la nostra aliquota marginale va al 50%, quindi non è proprio la stessa cosa. E infatti sta correggendo anche Montezemolo. Ma l'effetto è di un centrodestra, la mia opinione è questa, che forse avrebbe bisogno di un cambio di regia, e che forse quando Bossi borborizza tutti i giorni come fa, confondendo gli argomenti, tornando agli insulti, rivelando una incapacità oramai, secondo me, di coordinamento logico per poter essere un leader e poter dire tutti questi no, beh, mostra la corda. Quindi io non so se Berlusconi ce la faccia a rimettere in piedi questo radicamento che si spezza su punti così rilevanti. Questa è la mia opinione. Nicola Rossi, allora, questo decalogo di cui abbiamo visto la nascita e che racchiude punti un po' su tutto, perché non ci sono solo le alternative rispetto a questa manovra, cioè privatizzare molto di più, iniziando con Poste, Rai, eccetera eccetera, liberalizzare molto di più, individuare con precisione le soglie a cui alzare l'età pensionabile nel nostro paese, ci sono anche poi questioni di fondo come quella sul mercato del lavoro, il contratto unico, quindi è un vero e proprio programma alternativo. Domanda: è davvero oramai la crisi della rappresentanza politica di qua e di là ciò che consente, se la risolviamo e la risolviamo al più presto, di pensare a misure radicali capaci di rimettere l'Italia all'onore del mondo, oppure invece esiste ancora un margine all'interno di questa politica secondo lei? Io partirei proprio dalla discussione che è appena finita con il direttore Sallusti a proposito del contributo di solidarietà, perché la mia lettura del contributo di solidarietà è esattamente questa. Quando in una maggioranza uno dei partner importanti, quando si arriva a discutere determinate misure, dice non se ne parla, un altro dei partner importanti a proposito di altre misure dice non se ne parla, quando si è in mezzo a veti contrapposti e manca una leadership chiara, netta, evidente, con la autorevolezza necessaria in questi casi, che cosa accade? Accade che di solito prevalgono soluzioni tra virgolette tecniche, per cui si chiede a questo o a quell'ufficio legislativo di ministero di tirare fuori quelle risorse in una maniera sicura, no? Per cui si vanno a prendere quei contribuenti che sono chiaramente identificati, si tassano, perché la tassa è solitamente è la strada più semplice per ottenere quel risultato, e si presenta una manovra. Il contributo di solidarietà, oltre al fatto di essere una cosa, a mio modo di vedere, piuttosto iniqua per come è stata costruita. Cioè, non per interromperla, professor Rossi, ma solo per far capire a chi in ascolto. Quando un politico, sia esso il ministro del Tesoro, sia esso il presidente del Consiglio, di qualunque sia il suo livello di importanza nella compagine di governo, chiede però al ragioniere generale dello Stato o al direttore generale del Tesoro o al capo dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto a quest'ultimo, che mi sembra una delle parti tecniche più rilevanti del governo in carica negli ultimi 2 anni, di provvedere lui a identificare le cifre per arrivare alla somma, per così dire, dei saldi, la colpa naturalmente non è dei tecnici, per così dire, che obbediscono ai politici pro tempore, che conoscono ogni minima piega del bilancio dello Stato. La colpa è dei politici che, ripeto, la mia opinione, non voglio esprimerla e levarlo a giudizio, e che non sono più all'altezza però di formulare delle risposte per problemi di queste proporzioni. Fine dell'inciso, le do la parola. Esattamente così. Il contributo di solidarietà è un monumento all'impotenza della politica, alla incapacità della politica di guardarsi allo specchio e di decidere una strada. Ora, i 10 punti di cui stiamo parlando, nascono proprio con la volontà di provare a riscrivere la manovra, ma avendo in testa un'idea chiara di dove il Paese voglia andare. Il direttore Sallusti ha ragionissimo, cioè una cosa sono le ricette che si scrivono a tavolino, un'altra cosa sono quelle che si devono poi forgiare nella dialettica politica. Io però mi permetto di aggiungere una cosa: noi paghiamo la politica perché prenda decisioni, se non è in grado di prendere, gentilmente si faccia da parte, perché noi abbiamo bisogno di decisioni in questo momento. Quindi io sono il primo a capire che è difficile prendere decisioni politiche, ma dire è difficile non è una scusa per la politica, perché sennò abbiamo scritto la storia degli ultimi 15 anni in questa maniera, per essere precisi. Allora, con quei 10 punti sostanzialmente si dice qual è la priorità in questo momento per noi. Allora, la priorità è che in una situazione di questa difficoltà come quella che ci troviamo, il primo agente che deve pagare, dispiace, ma è il pubblico. Questo è il punto di partenza di tutta la storia. Se non si capisce questo punto, diventa difficile comprendere. Sono così tanto d'accordo che però vengo a un punto. Se non è giusto, io penso che sia così, che chi ha il portafoglio pieno, in questo caso lo Stato, chieda a me, che sul mio portafoglio già pago un'aliquota tantissima, ulteriormente di mettere mano al portafoglio, e dico nella parte patrimoniale, non nella parte conto economico delle tasse. Se condividiamo questa premessa, che adesso le chiedo poi di sviluppare meglio in quali modi, eccetera, eccetera. Però perché poi dover aggiungere la disponibilità a un ulteriore esborso patrimoniale? È questo che io non capisco e non condivido di questi punti. Se no, bisogna dire lo Stato che innanzitutto ottimizzi, diminuisca il suo eccesso di patrimonio, che non sa mettere a reddito, non sa gestire, dal patrimonio immobiliare fino alle sue partecipate controllate, allora ci dobbiamo concentrare su quello. Non ci si indebolisce dicendo ma eccoci pronti alla patrimoniale. Non serve solo a strezzare l'occhiolino a una parte di opinione pubblica che su questo dice no, i ricchi coi forconi, eccetera. Dunque, io sono certo di avere un argomento che non le dispiacerà. Allora, la mini patrimoniale, o chiamiamola come la vogliamo, è innanzitutto un'imposta ordinaria, non ha niente a che fare con le soluzioni all'amato, per intenderci. Quindi nessuno immagina dalla mattina alla sera di poter mettere la mano appunto sui grandi patrimoni per poter risolvere il problema del debito pubblico. Queste sono cose che non stanno né in cielo né in terra e diciamo io mi auguro di non vedere mai. Qui si sta semplicemente completando una operazione di definizione del nostro sistema tributario, il quale sistema tributario, dopo l'eliminazione pressoché integrale diciamo degli ICI, in realtà del patrimonio si occupa poco o nulla. Quasi tutti i sistemi tributari bene ordinati associano ad una imposizione del reddito un'imposizione del patrimonio. L'operazione è veramente diciamo molto lineare e ha a che fare più con la natura del nostro sistema tributario che non con la soluzione del debito pubblico. La soluzione del debito pubblico, come ho detto prima, sta nel fatto che lo Stato deve mettere mano alle sue proprietà, sul serio, non per scherzo, come spesso ha fatto diciamo negli ultimi anni. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, io credo che quando vi sono rapporti radicati nel tempo e così lunghi come quelli che questa maggioranza, questo governo e questa opposizione hanno con le forme organizzative dello Stato persone e dello Stato comunità, cioè sto parlando della pubblica amministrazione nel suo ambito più ampio, questo tipo di fratture, di riorganizzazioni, di cessioni del patrimonio, della sua messa a rete del patrimonio pubblico, dell'ambito di quelle indicate nei 10 punti di cui stiamo parlando, Italia Futuro, il professor Nicola Rossi, o di quelle che indica gente come me sul totale del recinto delle partecipate pubbliche sul patrimonio immobiliare, non sia possibile. Io per questo credo che sia matura una nuova fase. E adesso andiamo in pubblicità, ma dico subito che torniamo con una domanda, prima di arrivare ad Alessandro Barbera, che voglio fare al direttore del giornale Alessandro Sallusti, chiedendogli fuori dai denti. Direttore, ma se nel giro di un paio di settimane, 3 settimane, in 1, 2, 5, 10 posti del nord, un po' di gente inizia a dire noi diamo vita a qualche cosa nel centrodestra, che non è questione di leadership, non ci interessa sapere Berlusconi, non Berlusconi e così via, ma che nasce da una base di discontinuità, poi se il PDL o come diavolo si chiamerà quando ci saranno le elezioni farà la scelta di venire insieme a noi, bene, se no no, ma noi siamo discontinui perché non ci crediamo più a questa logica troppo mediata e troppo inficiata da questioni personali della tale governo. La domanda è, in quel caso, giornali come il tuo, quello che guidi, Alessandro Sallusti, come vedrebbero questa roba se fosse chiara, precisa nei suoi intenti e dicesse per tornare davvero a quella visione di fare uno Stato liberale e così via, ci vuole una totale discontinuità? Perché a quel punto o gli si dà una mano oppure ci si rassegna, e quando dice ci si rassegna al fatto che siano magari il Montezemolo e magari gente che rispetto al vincolo che ponevi tu, sì, ma ci sono anche poi i problemi della rappresentanza politica, li scavalca di botto. Allora, c'è bisogno di questa discontinuità nel centrodestra? Dareste una mano poi del giornale? Eccoci tornati in studio, abbiamo concluso prima del lancio della pubblicità con una domanda al direttore del giornale Alessandro Sallusti, ma se ci dovesse essere aria di proliferazione dal basso, diciamo così, delle proposte dei frondisti, cioè di quelle come l'onorevole Crosetto, di come l'onorevole Stracquadagno, che dicono noi dobbiamo essere molto più discontinui e molto più tosti. E se si dovesse assistere alla nascita di pezzi che non credono più nella continuità di questa formula e dicono noi per tornare a batterci su proposte liberali abbiamo bisogno di una visibilità e di personale diverso da questo, che è troppo segnato da vicende personali molto profonde come quelle che sono che dividono, cioè dividono Tremonti da Berlusconi, Bossi dal resto del PDL, come si comporterebbe una testata come Il Giornale? La domanda che faccio, mi rendo conto, è un po' delicata, cioè ci sono anche questioni di editore di mezzo, il Presidente del Consiglio, no. È un po' antipatica, però la questione è perché il centrodestra dovrebbe assistere a braccia conserte al fatto che Montezemolo, a quel punto facendo bene il suo, diventa in pochi mesi un punto di riferimento obbligato, senza al di là di tutto ciò che significa le pesanti mediazioni, ma che sono anche poi consistenziali l'idea della politica come rappresentanza. Che faresti? Ma beh, sicuramente ne darei conto, ma come abbiamo registrato le iniziative dell'onorevole Crosetto, dell'onorevole Martino e di questa squadra, però comincerei a dargli una dimensione a questa squadra dal punto di vista politico, perché a leggere alcuni giornali è sembrato che il PDL si fosse spaccato in due, se non addirittura una maggioranza da pensare in un certo modo. Parliamo di 13 tra deputati e senatori, partiamo di 13 su, aiutami, oltre 400 in tutto, no? Sì, sì, sì. 13, ecco. Allora questa è la dimensione della protesta, quella più visibile, più che ci mancherebbe altro che non ci fosse, mi dico, cioè se dentro un partito popolare, perché il PDL è un partito popolare, non c'è una minoranza anche un po' rumorosa e chiassosa che picchia i pugni sul tavolo dicendo tra l'altro cose sacrosante, no? Allora sì che ci sarebbe da preoccupare. Allora io comincio a dire questo, non è che se dentro il PDL, che piano piano sta diventando un partito, la nomina del primo segretario, il primo segretario che comincia a muoversi, a fare alcuni passi in maniera autonoma per i fatti suoi, certo, apparentemente autonomo, una minoranza rumorosa e qualificata, perché stiamo parlando dentro questi 13 ci sono alcune delle teste migliori del liberismo in politica, e sono tutti fatti che io trovo positivi, che non necessariamente devono sfociare nei forconi, dargli a Silvio o dargli a Tremonti o dargli a chissà chi. Se Dio vuole si sta per diventare un partito, se questa manovra aiuta anche il PDL a diventare un partito e aiuta a far emergere e fare scoppiare definitivamente le contraddizioni interne alla Lega, beh, da questo punto di vista benedetta sia questa manovra. Allora, vedremo se questo inizio di settimana, a cominciare dall'incontro che oggi c'è al vertice della Lega, andrà in questa direzione. Io credo che dopo un anno e rotti di sondaggi di un certo tipo, insomma, i processi politici hanno una loro logica. Credo per la Lega essersi fatti paladini del diritto di andare in pensione a 58-59 anni, credendo in questo di identificare una battaglia di tutela della parte bassa della piramide sociale, sia un errore di miopia assoluto, totalmente divergente dalla difesa delle ragioni di una parte d'Italia che è stata quella più duramente colpita dalla crisi del manifatturiero e che ha bisogno di interventi di riordino nel perimetro pubblico così rapidi e così organici e così strutturali da liberare risorse, significa meno tasse subito su chi le paga, imprese e lavoro, per la crescita. Credo che quindi la posizione della Lega sia incomprensibile rispetto a chi credeva che la Lega potesse essere una frontiera di concretezza rispetto al problema del PDL, che è Silvio Berlusconi. Da questo punto di vista vedremo. Io mi auguro davvero che nel centrodestra ci sia chi ragiona se nasce dal basso una cosa di discontinuità, perché io penso che tra poche settimane la vedremo. Mi sbaglierò o meno? Un po' di telefonate e poi la saggezza del giovane, ma non per questo meno tagliente, giornalista della Stampa, e quindi lui sta in una tribuna in cui si può permettere di fare l'indipendente e di fare l'oggettivo. Però facciamogli dire al nostro amico Alessandro Barbera un po' di cosette, visto che sta zitto dall'inizio, ma prima rapidissimamente alcuni ascoltatori. Cominciamo con Michele, che chiama da Milano. Prego, Michele. Sì, salve, buongiorno, salve. Volevo, niente, mi riallaccio alla domanda iniziale sua. Se, Napolitano. Se Napolitano è stato preso, diciamo, sul serio, o se aveva ragione, cioè, diciamo, se secondo me aveva ragione Napolitano, faccio un certo distinguo. Secondo me Napolitano aveva ragione, ma non tanto sulla gravità attuale della crisi, quanto sul richiamo al fatto che con lo stock di debito pubblico che noi abbiamo, ma anche il rapporto che noi abbiamo, 120-125 di debito PIL, prima o poi i mercati finanziari ci avrebbero chiesto il conto. Diciamo, quello per me è un po' differente dall'angolatura è che non è la situazione attuale dell'Italia che è più grave di quella che avevamo sei mesi fa, un anno fa, è che dopo la situazione della, diciamo, da dopo la crisi greca, il problema del debito pubblico dei paesi in generale, che sia la Grecia, UK, US, è diventato di dominio pubblico, e quindi l'Italia con quello stock e con quella percentuale, prima o poi i mercati finanziari avrebbero chiesto conto. Quindi D'accordo Michele, ma è continuare a dire, come è stato detto all'inizio, si ricorda tante volte ci hanno detto il risparmio degli italiani è così forte che ci mette il riparo da ogni possibilità di essere chiamati alla sbarra degli accusati sulla sostenibilità del debito pubblico. Sor Marco Fortis, che è un dato vero, anch'io tante volte ne ho parlato e ho sempre detto, primo, non c'entra niente, perché la consistenza del nostro debito è tale e le condizioni strutturali dell'aumento della spesa corrente italiana sono tali che questo non significa nulla, perché noi ci andremo obiettivamente nel mirino e nei sospetti dei mercati. Primo. Secondo, dico, attenti a dirlo, perché alla fine diventerà la patrimoniale la soluzione di tutto, e infatti secondo me, ecco, 1 + 1 = 2. Comunque, per Michele Napolitano aveva in buona sostanza ragione. Sentiamo Gianluigi che ci chiama da Bologna. Prego Gianluigi. Buongiorno, volevo soltanto dire, perché non lasciare libera l'età pensionabile intervenendo sui rendimenti e collegandoli a quanto versato e all'età anagrafica e all'attesa di vita. Quindi lei se dice, uno vuole andare in pensione, aspetti, aspetti, per far capire a chi è in ascolto, lei dice che chi oggi è in condizioni di poter fare quota 96, noi non lo mendiamo con la pensione retributiva per la quale ha diritto, per la stragrande maggioranza dei casi, ovviamente, perché è fuori dall'applicazione della Dini, ma gli applichiamo la contributiva. Sa meglio di me che non è possibile, Gianluigi. No, perché non è possibile? Cioè, indipendentemente dall'età, potrebbe anche, o da un numero, anche a 40 anni, porta a casa 5 euro al mese, ma va in pensione sulla base di quanto ha versato. Gianluigi, questo potrebbe essere possibile una volta a pieno regime la riforma Dini. Noi stiamo parlando. Ma si può anticipare. Ma non si può anticipare cambiando la natura della creazione del montante a chi ce l'ha avuto fino alla riforma Dini sulla base del retributivo. Questo significherebbe davvero dare un senso alle parole di Bossi, che dice a quel punto tocchiamo il rendimento rispetto a anni in cui i diritti erano disciplinati in maniera diversa. Quindi Gianluigi, no, io le devo dire che la sua soluzione in termini teorici, libertà di pensione commisurata esclusivamente ai contributi, io sono totalmente d'accordo in una visione liberale e con una pensione però che per tutti è fatta solo sul contributivo. Ma lei mi deve dire, negli anni che abbiamo di fronte a noi, in cui c'è un aggravio molto consistente del ricorso alla fiscalità generale, cioè alle tasse mie e a quelle di come me, chi le paga, per pagare ciò che ci costano in più le pensioni rispetto ai contributi, come ci dobbiamo comportare? Quindi nessuno si sta accanendo nel dire ci vogliono tetti di, per pensioni di anzianità e di vecchiaia più elevati. Noi dobbiamo dare una risposta alla domanda. Nei prossimi 3 anni aumenta di quasi 30 miliardi di euro annuo il contributo fiscalità generale alla sostenibilità del sistema pensionistico assistenziale del nostro paese. C'è modo strutturalmente di evitarlo? Ecco, questa è la domanda concreta. Pre-treni, non su come funzionano i sistemi ottimalmente a regime, perché su quello io le do ragione. Sabino da Pisa, sentiamo Sabino. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Ma due brevissime considerazioni. La prima è che se c'è davvero riconoscimento della crisi, bisogna avere anche il coraggio di toccare e lavorare sui diritti acquisiti. Giusto. Le pensioni in questo momento e i pensionati, a mio avviso, da lavoratore dipendente che ha ancora davanti a sé 25 anni di lavoro almeno, sono davvero i privilegiati, a parte i pensionati di vecchiaia e quelli che prendono 500 euro al mese. Secondo punto, rapidissimo, dopo 30 anni di spostamento della ricchezza dal lavoro dipendente e dal reddito alle rendite, bisogna avere il coraggio di intraprendere il cammino opposto, perché altrimenti la domanda interna, cioè chi davvero spende e compra prodotti italiani non partirà mai. E siccome l'Italia è un paese di industria manifatturiera e senza industria non si sfamano 60 milioni di persone, bisogna avere il coraggio di fare queste scelte. Sabino, al volo, per capirci, secondo lei l'aliquota di convergenza più o meno neutra sulle cosiddette rendite finanziarie al 20%, eccezion fatta che il 12,5% che resta sui titoli del debito pubblico, così come il governo la fa in manovra, risponde a questo suo secondo obiettivo oppure no? Ma io non sono così qualificato perché non è davvero il mio mestiere. Credo che tecnicamente sia possibile valutare un'aliquota che riesca a far invertire il processo per cui è sotto gli occhi di tutti. I lavoratori dipendenti si sono sobbarcati il carico di pagare il welfare le pensioni. Io le spiego, Sabino, che secondo me tecnicamente invece questa cosa che riempie l'entusiasmo tutti è solo l'ennesimo favore alle banche, perché rende di tutti gli impieghi quello meno gravato per l'effetto combinato di tutte queste misure di quelle di luglio e agosto tenere i soldi in banca, che è l'impiego più stupido, tranne che, scusatemi, per sostenere in questo momento le banche che sono travolte da una capitalizzazione che va a picco. Però questo secondo aspetto è un problema settoriale, non vedo perché bisogna indurre la gente a tenere i soldi sul conto, perché ripeto, per l'ottimizzazione dei flussi di risparmio e montanti patrimoniali è una cretinata. Però evidentemente la lobby bancaria ha suo peso, come ovvio. Allora sentiamo invece qual è l'impressione, gli abbiamo chiesto per tre quarti d'ora di pazientare, facciamo una rapida incursione nelle strade in diretta e poi Alessandro Barbera ci guida invece in quello che in un foro illuminato come La Stampa per un bravo collega giornalista economico sulle due domande: cambia sta manovra davvero in maniera chiara oppure no? Secondo, il centrodestra, la discontinuità, i temi di Napolitano di ieri. Anche perché parlare di rendite finanziarie con la borsa in queste condizioni fa abbastanza ridere, voglio dire, se vogliamo. Però detto questo, Alessandro Barbera, come cambia e se cambia in questi giorni la manovra secondo te? Uno, due, le conseguenze e la fotografia ieri di Napolitano rispetto agli sviluppi che vedi in corso per via della manovra, se la manovra basta o se bisognerà metterne mano a un'altra all'interno della maggioranza e di questo governo. Ma anzitutto occorre vedere cosa accadrà nelle prossime ore sulle borse, perché è un elemento non prescindibile di questa faccenda. Se dovessimo stare a quelli che sono le indiscrezioni di queste ore, le accennava prima anche il direttore Sallusti, la sensazione è che dentro all'entourage berlusconiano ci sia stia prevalendo la linea al momento del quieto vivere, cioè del non muovere troppo le acque, perché spostando, togliendo di mezzo una cosa importante come il contributo di solidarietà, che è più simbolico che tecnicamente di gettito, poi in realtà da quasi 4 miliardi in 3 anni, quindi poi non pochissimo, ma insomma la sensazione è che la volontà sia quella di non fare nulla, o quasi. Quindi di continuare a farsi del male. E se devo dire la mia, io credo che la manovra dovrebbe cambiare. Per una volta, molte volte non ci siamo trovati d'accordo sulla questione delle tasse, per una volta dico che questo contributo di solidarietà non va bene. È una vera stupidaggine per due motivi. Primo perché è per l'ennesima volta un contributo contro le famiglie, perché non si capisce perché un professionista che paga tutte le tasse fino all'ultimo, che porta a casa poco più di 4.000 euro netti al mese, debba pagare una tassa ulteriore se ha 2 o 3 figli come chiunque altro. È veramente incredibile. L'altra cosa è che, non avendo messo mano alle pensioni, siamo arrivati al paradosso che una persona in età lavorativa che guadagna benino e paga tutte le tasse si trova a dover pagare un contributo di solidarietà che invece magari a una persona che è andata in pensione a 58-59 anni, magari con un reddito lordo di 50-70 mila euro, poi dopo aver preso la pensione magari si fa anche un secondo lavoro e magari in nero, come spesso accade, e porta a casa magari molto di più di quello che quel professionista in età lavorativa e che paga tutte le tasse si trova costretto a pagare. Questo è veramente iniquo ed è incredibile che nella maggioranza siano stati solo in 13 a porre questa questione. Io credo che nella maggioranza si sia aperta per la prima volta, questa forse è la vera novità, una sorta di ribellione da parte dell'ala liberale, cioè come se ad un certo punto dentro la maggioranza, dove per tanti anni questa cosa è rimasta un po' sotto traccia, sia venuto fuori una vera ribellione verso un'impostazione marcatamente, si può dire in qualche modo socialista, che è quella imposta a Giulio Tremonti, e che una parte del PDL non regge più, e che Tremonti ha imposto perché la Lega ha imposto a sua volta, perché la Lega non riesce a nella Lega non prevale la Maroniana, che è quella più possibilista sul tema delle pensioni, prevale quella estremamente conservatrice della Lega, che ricordiamo è arrivata a dire, l'ho sentito dire a Marco Reguzzoni in commissione pochi giorni fa, dice che l'età di lavoro delle donne non... tra l'altro solo quelle del settore privato, perché ricordiamo che adesso quelle del settore pubblico sono costrette a lavorare fino a 65 anni, che l'età delle donne non deve aumentare perché le donne sono gli angeli del focolare. Ecco, è evidente che a questo punto nella maggioranza c'è un problema enorme che evidentemente è irrisolto e che a questo punto viene al pettine. La maggioranza può decidere di vivacchiare o può decidere di implodere lentamente come sta facendo da mesi. La mia impressione è che, come i Nicola Rossi, diciamo così, hanno testimoniato con la scelta che fece andandosene al PD, ricordate, facevamo la trasmissione per animare oggi, quindi a distanza di pochi mesi, iniziative come quella di cui stiamo parlando, io credo che la pattuglia dei dissenzienti, i 13, 15, quanti sono, insomma, che con Antonio Martino, Stracquadanio, Crosetto, Isabella Bertolini hanno detto no a questa impostazione, hanno detto: caro Berlusconi, non ci importa, noi non possiamo più stare zitti rispetto a errori di queste proporzioni, cioè a non vedere che sono voci così rilevanti che sono trascurate nel perimetro della spesa corrente e dei loro andamenti tendenziali di spesa nei prossimi anni, mentre invece ci si concentra su alcune cose politiche per dire sì alla Lega e si introduce questo contributo di solidarietà che ha poco più di 40.000 euro di reddito l'anno. Io penso che quella pattuglia si ingrosserà. Mi sbaglierò, ma penso che nel centrodestra è venuto il momento di chi dice da dentro il Parlamento, ma soprattutto da fuori, basta, perché non possiamo essere travolti in nome delle vostre miopie personali. Sentiamo rapidamente ancora qualche telefonata, ce ne sono tante. Alberto ci chiama per esempio da Brindisi. Prego Alberto. Sì, buongiorno, buongiorno dottor Giannino. Volevo portare questa mia considerazione. Sento parlare con insistenza su nuove tasse, come fare a reperire nuove fonti di tassazione, e non vedo la stessa intensità di discussione nell'andare a cercare di evitare gli sprechi, no? E quindi andare a trovare nuove risorse dove a certo punto ci sono questi sprechi. Alberto, immagino che sia una critica non tanto a noi che parliamo solo delle tasse e non dei tanti buoni tagli delle misure del governo, quanto alle misure del governo, perché sa, nella manovra anche aggiuntiva, oltre ai 6 miliardi di tagli sui ministeri, ce ne sono altrettanti e anzi un po' di più per le autonomie, che vengono equilibrate dallo sblocco delle addizionali immediate da parte delle autonomie. Di tanto per così dire sbandierati tagli della politica di questa manovra, e cioè per esempio l'accorpamento delle province sotto i 300.000 e con una certa delimitazione di estensione, ha visto come partendo da 39, 37 eccetera sono arrivati a 22 e non so a quale cifra si fermeranno una volta che sarà compiuto il censimento che è stato annunciato per il prossimo autunno. Vedremo anche per i comuni sotto una certa soglia minimale di abitanti, però parliamoci chiaro, i tagli tipo la sforbiciata del 15% della sola indennità, non del totale complessivo che prendono al mese i parlamentari in caso doppio lavoro, è una roba che è una presa per i fondelli, tanto per essere chiari. Quindi proprio per questo noi diciamo che delle grandi voci di aggregati della spesa corrente, quella previdenziale è quella che inevitabilmente va affrontata, e non bisogna farlo cadendo una trappola di chi dice come Bossi: ah, volete levare i soldi a chi ne ha pochi. E ci mancherebbe, lo scandalo di troppi trattamenti a 500 euro ai minimi è uno scandalo vero che spiega il basso potere d'acquisto del nostro paese. Il problema è però che non si capisce perché continuare a mandare in pensione la gente a così bassa età. Questo è il problema vero, e quelli sono saldi da decine di miliardi di euro. Non si tratta di passare da quota 96 a quota 97, come vi diranno sui giornali nei prossimi giorni, millantando che questo è il grande sforzo che può fare il governo e la maggioranza per dare retta a chi come rompe le scatole su questo. Non è un anno in più. Maurizio Sacconi, su questo stai sbagliando, caro ministro del welfare, a difendere questa impostazione insieme alla CISL e alla UIL. La CISL e alla UIL, vicina al governo e a chi in Confindustria anche, ha cambiato la realtà di come si fanno i contratti in questi due anni, arrivando anche a far dire sì alla CGIL il 28 giugno sulle intese aziendali. Se i sindacati avessero avuto di fronte un governo che dice queste sono le cifre, bisogna alzarli questi tetti per dare anche risorse per abbassare i contributi ad assumere i giovani, avrebbero detto sì. Quindi nel governo secondo me avete commesso degli errori un po' gravi. Sentiamo Felice che ci chiama da Parma. Prego Felice. Buongiorno. Io direi che, guardi, una cosa che sembrerà talmente, comunque la dico subito senza perdere tempo, quelli che prendono 500 euro al mese di pensione non vanno difesi perché non hanno mai versato nulla, va bene? Quelli che hanno versato per 45 anni invece si sentono continuamente accusati di essere dei ladri, è una vergogna. Tutti quanti, appena si parla, tutti gli anni si fanno le finanziarie, non ho mai visto lo Stato un anno dire quest'anno sono avanzate 100 lire e vi do il mio popolo. Tutti gli anni c'è una finanziaria, tutti gli anni. Che si fa? Si parla delle pensioni. Sono sicuro che alla prossima pensione si parlerà di pensionare la gente dopo 45 anni di fonderia a 99 anni, perché tanto la vita si è allungata. No, Felice, No. La vita si è allungata e tu non puoi dire che non si è allungata, punto numero uno. Secondo, qui nessuno parla della fonderia e tu non usi questo tono per dire che noi non rispettiamo i siderurgici o i lavori usuranti. Però la piantiamo di usare la questione dei lavori usuranti come se fosse la realtà che riguarda l'intero mercato del lavoro. Perché sennò ci prendiamo per i fondelli, caro Felice. Qui nessuno, ripeto nessuno, si permette di dire che non bisogna fare in modo che chi ha lavorato il giusto goda del suo trattamento. Si tratta di dire che non possono i giovani disoccupati e le donne, soprattutto nel sud, i giovani e le donne, continuare a essere coloro la cui mancata assunzione, la cui mancata prospettiva di vita, perché questa è l'amara realtà, serve a far andare in pensione 3-4 anni prima chi ha giustamente maturato i suoi diritti e può ancora aspettare prima di vederseli goduti. Perché questa è la realtà dicotomica e duale del mercato del lavoro italiano. Su questi voi gravate se continuate a dire voglio andare in pensione a 58 anni e non me ne frega niente che Bossi sia così rimbambito da darvi ragione, perché avete torto se la pensate così. E una classe dirigente è degna di questo nome, se si è letta a destra, a sinistra, al centro, se è capace di spiegarvelo numero alla mano, alzando anche il tono se necessario. E se anche il capo dello Stato alza il tono, beh, voglio dire, vista l'esperienza politica pluridecennale da cui proviene, vuol dire che deve essere proprio così. Ecco, questo è il mio punto di vista finale. Quindi non c'è demagogia accettabile su questa questione dei diritti dei pensionati, che nessuno tocca, a patto però che si aprano gli occhi su un paese come il nostro. Quello che ci costa di media in più annuale, 2,7 punti in più rispetto alla media dell'Unione Europea ogni anno questo sistema, e quei punti lì li prendiamo dalla fiscalità generale, per essere chiari. Ecco, cioè noi diamo più di 70 miliardi di euro l'anno dalla fiscalità generale all'INPS, per essere chiari, e queste sono le cose su cui riflettere. Allora, rapidissima domanda finale ancora una volta ad Alessandro Barbera. Secondo te il rapporto personale tra Tremonti e Berlusconi a che cosa è arrivato? C'è una ripresa di forza del ministro in questa manovra bis, per cui i consiglieri di cui ci hai parlato che dicono al Presidente del Consiglio non cambiare troppo, non mettere mano, deriva anche da questo, oppure è una illusione, un po' fallace, basta una nuova spallata dei mercati e di nuovo torneremo alla debolezza dell'economia? Ma fino adesso per me rispetto al rapporto Berlusconi-Tremonti è valsa la massima latina simul stabunt simul cadent. Naturalmente starebbe a Berlusconi ed è solo nel potere di Berlusconi come dire evitare che per lui che questo principio si produca. Al momento i rapporti sono pessimi come lo sono ormai da molto tempo. Il problema di Berlusconi ovviamente è che è quasi impossibile, difficile se non quasi impossibile trovare un sostituto in questa fase a Tremonti. La sensazione è che a questo punto qualcosa e molto dipenderà anche da cosa succederà dentro al PDL, cioè se questa fronda terrà duro o invece, come al momento sembra di capire, si limiterà a come dire fare la testimonianza e dire che la manovra non va bene. Però il punto è ineludibile, potranno passare 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi, però è evidente che a questo punto nel governo c'è ormai una frattura interna difficilissima da ricomporre e che non riguarda solo Tremonti e Berlusconi, ma riguarda appunto le anime del PDL, e a questo punto le sorti degli equilibri interni al PDL sono molto strettamente legati a quelli degli equilibri interni alla Lega. Se nella Lega continuerà a prevalere la linea Bossi, è evidente che come dire, la stabilità del governo e la stabilità di Tremonti è probabilmente probabilmente garantita. Se invece dovesse prevalere Maroni e ci fosse un passaggio di consegne all'interno della Lega, beh, a quel punto certamente quel punto cambierebbero e probabilmente anche il governo cambierebbe di segno. Perfetto, intanto sostegno a chi dice che la manovra va cambiata all'interno dei gruppi parlamentari. Da moltissimi dei nostri messaggi, molti dicono che ha alzato troppo la voce, dicono che il controllo precedente l'alzava meno. Benissimo, io credo che su tasse, manovre, sostenibilità del paese, politica da cambiare, bisogna alzare la voce. Sappiatelo, abbassate il tono o cambiate radio se non vi piace, e vi piacciono questi politici. A me no. Appuntamento a domani di Nazionale Radio.